in primo piano. Martedì 26 luglio c'è chi sceglie la situazione finanziaria internazionale con lo sguardo soprattutto agli Stati Uniti, oppure la situazione politica italiana e anche le ripercussioni della strage di Oslo. Vediamo i titoli per il Sole 24 Ore. Stallo USA e Grecia, corsa all'oro, braccio di ferro sul debito americano, il fondo monetario si rischia lo shock. Per il Corriere, debito USA, paura in borsa, e Repubblica, borsa, attacco alle banche, Milano la peggiore d'Europa. Per La Stampa, ecco la situazione di Oslo, il killer, non ho agito da solo, c'è quel sorriso, davvero un sorriso inquietante, beffardo, nel quale viene ritratto il killer di Oslo, e lo trovate su tutte le prime pagine dei giornali. Anche per Avvenire, questo è il titolo, non l'ho fatto da solo. Mentre Il Giorno, il quotidiano nazionale, l'edizione del Nord, datelo a noi, il killer rischia il linciaggio. C'è la foto proprio di lui col sorriso. Anche per L'Unità, questa foto di lui che sorride mentre viene tradotto al tribunale, allarme in Europa, non era solo. Poi la questione PD, le presunte mazzette nel PD per Libero, ecco il tangentificio rosso, Il Giornale, diversamente ladri, Il Fatto Quotidiano, caso Penati, PD nei guai, perché Bersani tace? In realtà oggi Bersani ha scritto una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, per Il Riformista la difesa di Bersani, l'apertura del Messaggero, Afghanistan un altro morto, e per Il Manifesto, cimitero afgano, e dunque si concentra sul parà ucciso in Afghanistan. Allora, le segnalazioni prima della pubblicità, la prima è questa, la troviamo sui vari giornali, Il Corriere, Repubblica, Libero dedicano una pagina. Il titolo del Corriere, svolta della consulta, sì al matrimonio con i clandestini. E anche per Repubblica, sì ai matrimoni con i clandestini. Allora, di cosa si tratta? La classica sentenza della Corte Costituzionale che smonta un pezzo di leggi italiane, in questo caso il pacchetto sicurezza, fortemente voluto dalla Lega. Scrive Vladimiro Polchi su Repubblica, un italiano può sposare un immigrato irregolare? Da oggi sì. Cade dunque un pezzo del pacchetto sicurezza, era nato proprio per impedire i cosiddetti matrimoni misti, magari per interesse, perché il comune poteva rifiutare le nozze tra un italiano e un immigrato irregolare perché bisognava presentare tra i documenti il documento di soggiorno. La Corte Costituzionale, sulla richiesta del Tribunale di Catania, alla quale si era rivolta una coppia, lei italiana e lui marocchino, ha deciso che questo viola il diritto di uguaglianza da parte di tutti i cittadini. Tutti si possono sposare, tutti debbono potersi sposare, anche chi è irregolare, anche chi non ha il permesso di soggiorno, e dunque questo diritto inviolabile va tutelato. E tra l'altro Repubblica fa sapere che una volta sposato l'immigrato irregolare o l'immigrata irregolare può richiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia e uscire così dalla clandestinità, e non solo, in base alla legge, dopo 2 anni dalle nozze col permesso in mano potrà chiedere anche la cittadinanza italiana. Il titolo di Libero, i giudici fanno sposare anche i clandestini. La seconda segnalazione la trovo in prima pagina del Sole 24 Ore, ancora sviluppo negato, Torino non vuole l'IKEA, è un altro caso che in questa situazione descrive Silvia Pieraccini in prima pagina, che ricorda il caso nel Pisano. Questa volta non è un problema di tempi ma di metodo, il risultato è lo stesso, la multinazionale dei mobili IKEA cancella un investimento da 70 milioni per costruire il secondo negozio in Piemonte, che avrebbe portato 250 posti di lavoro. Dopo aver sollevato il polverone in Toscana, dove IKEA aveva cancellato l'investimento sempre da 70 milioni a Vecchiano, vicino Pisa, dopo aver atteso per 6 anni... le autorizzazioni che non arrivavano, in Piemonte il via libera del comune di La Loggia nella cintura torinese è arrivato in tempi rapidi, ma stavolta mettersi di traverso per una questione di oneri urbanistici, compensazione ambientale, è stata la provincia di Torino che ha bloccato il cambio di destinazione d'uso da agricola commerciale dei 160.000 metri quadri su quale avrebbe dovuto insediarsi la società svedese. Risultato, anche in questo caso, l'IKEA dice, IKEA Italia, del quartier generale, dice decisione incomprensibile, ce ne andiamo e ritiriamo questo cantiere, questo investimento. Rimane solo al momento l'investimento di Chieti Pescara, che porterà 20 negozi, i negozi dell'IKEA del nostro paese. E poi, fanno sapere da appunto IKEA Italia, se non ci fanno fare il negozio a Torino, lo faremo in Francia, o a Nizza, o a Ventimiglia. E addio Italia, addio investimenti. Eccoci qui alle 7:31 minuti. Allora, intanto diamo uno sguardo alla politica. La politica fa registrare sui giornali due notizie. Intanto pare essere il giorno, oggi o più presumibilmente domani, in cui ci sarà la nomina del nuovo guardasigilli, il nuovo ministro della giustizia, che dovrebbe sostituire, che sostituirà il ministro Alfano, che si dedicherà totalmente al partito. Chi sarà? Secondo tutti i giornali si tratta di Francesco Nitto Palma. Berlusconi dà retta a Napolitano, così titola La Stampa, pagina 13, con il resoconto politico di Ugo Magri. Due nuovi ministri presi dal Parlamento, Nitto Palma alla giustizia, Bernini alle politiche comunitarie. Pare deciso, scrive Ugo Magri, Berlusconi a scegliere il nuovo guardasigilli, vuole decidere entro domani sera. Francesco Nitto Palma, calabrese, 61 anni, già sostituto a Roma nella procura antimafia, oggi senatore del PDL e sottosegretario all'interno. Qualche malvagio sostiene che se incontrasse la politica per strada, il papabile neoministro non la riconoscerebbe. In compenso, aggiungono fonti che col premier hanno colloquiato nella giornata di ieri, Nitto Palma è un soldato fedele e mai si è tirato indietro. Così la descrizione di Ugo Magri. L'altro candidato di cui si parlava ed è che è rimasto in piedi è Renato Brunetta, ma avrebbe dovuto apprendere la BC essendo professore di economia. Nel pomeriggio di ieri, per la verità, scrive Magri, impazzava anche la voce di un altro ministro, La Russa, disposto al trasloco dalla difesa alla giustizia. Ma chi glielo dice a Napolitano che si dovrebbe cambiare il ministro alla difesa mentre c'è una guerra, anzi due guerre in corso, Afghanistan e Libia? E allora ecco che depennati tutti, anche Frattini, la Gelmini che ha detto no grazie, Lupi che avrebbe accettato ma il suo mondo di riferimento CL non vuole, ecco la scelta di Nitto Palma che diventa quasi obbligata. Ma secondo Ugo Magri c'è anche Anna Maria Bernini come possibile 46enne, possibile nuovo ministro alle politiche comunitarie, quel ministero lasciato libero da Ronchi e che la Lega voleva per Re Guzzoni, ma pare andrà Anna Maria Bernini. In ogni caso tutto dovrà svolgersi molto probabilmente entro venerdì, perché venerdì è l'ultimo giorno, perché poi Napolitano, il capo dello Stato, andrà in villeggiatura, andrà in vacanza e dunque bisogna decidere per le firme necessarie, il giuramento eccetera. Anche per Repubblica, giustizia, Nitto Palma favorito per il dopo Alfano, Repubblica con Francesco Be e Eliana Milella è subito molto critica. Stanno per scegliere come guardasigilli il magistrato che era in via Renula nel 94 con Alfredo Biondi, ministro della giustizia, quando si tentò di fermare Mani Pulite col decreto Salva Ladri. Francesco Nitto Palma era allora il vice capo di gabinetto, toga super conservatrice di Magistratura Indipendente, folgorato da Cesare Previti e dalla politica, sceso in campo nel 2001. Questo è il ritratto molto stringato e molto critico dal punto di vista di Repubblica del papabile nuovo ministro alla giustizia. E così anche il Fatto Quotidiano, ritorno dei Cesaroni, due amici di Previti in corsa per il Ministero della Giustizia, il super favorito Nitto Palma e Donato Bruno. I giornali come il Fatto Repubblica la pongono così. Arrivano due papabili, soprattutto Nitto Palma, amico di Cesare Previti. L'altro tema politico però che prende più spazio dai giornali, molti giornali ci titolano, molti giornali ci aprono, è la questione all'interno del Partito Democratico dopo gli scandali che sono affiorati, i presunti scandali, le presunte tangenti che hanno coinvolto Filippo Penati, che è indagato dalla Procura di Monza e che ieri ha fatto un passo indietro, si è dimesso da tutti gli incarichi di partito. Ma non è l'ultima inchiesta, è solo l'ultima in ordine di tempo in questi mesi, che coinvolge anche il Partito Democratico. Allora, molti giornali titolano come il Fatto Quotidiano in prima pagina il silenzio di Bersani, cioè perché Bersani tace, caso Penati, PD nei guai. In realtà oggi Bersani prende carta e penna e scrive una lettera che il Corriere della Sera pubblica in prima pagina. Il titolo è «Una legge sui bilanci dei partiti». Inizia in prima pagina e poi l'intera pagina 13 praticamente. Caro direttore, così inizia il segretario del Partito Democratico, ci si chiede se i recenti fatti giudiziari mettono in discussione qualcosa della natura del Partito Democratico. Voglio rispondere con chiarezza. Noi non rivendichiamo una diversità genetica, noi vogliamo dimostrare una diversità politica. In primo luogo, a proposito dell'inchiesta di Monza, noi diciamo la magistratura faccia serenamente fino in fondo il suo mestiere. Abbiamo fiducia nella magistratura. Confidiamo che Penati possa vedere presto riconosciuta l'innocenza che rivendica con forza. Intanto Penati ha fatto con correttezza e responsabilità un passo indietro. Questo è il nostro secondo criterio. In caso di inchieste, le istituzioni e il partito, in attesa che le cose si chiariscano, non devono essere messe in imbarazzo, devono poter agire in piena serenità. I nostri principi sono dunque fiducia nella magistratura, rispetto assoluto delle istituzioni, presunzione di innocenza secondo il principio costituzionale. Più avanti, poi Bersani dice: chiediamo una legge sui partiti che garantisca bilanci certificati, meccanismi di partecipazione e codici etici, pena l'inammissibilità a provvidenze pubbliche o la presentazione di liste elettorali. A differenza di altri, noi abbiamo già fatto molto per predisporci autonomamente a quella prospettiva. Abbiamo in vigore un codice etico più restrittivo rispetto alle garanzie del percorso giudiziario. Abbiamo applicato per i candidati alle elezioni il codice suggerito dalla Commissione Antimafia. Unico tra tutti i partiti italiani, fin dalla sua nascita, il PD sottopone il proprio bilancio a una primaria società indipendente di certificazione. E poi ecco qui che entra nel cuore delle accuse Bersani. Il Partito Democratico, e non solo perché nella vicenda principale non esisteva ancora, è totalmente estraneo ai fatti oggetto di indagine a Monza e altrove. Ci tuteliamo e ci tuteleremo in sede legale contro chiunque affermi o insinui il contrario. E poi ancora, sappiamo per il futuro di non poter essere immuni da sospetti più o meno fondati e da rischi. Sappiamo che anche noi dobbiamo aprire quattro occhi e fare tutto quanto c'è possibile per migliorare procedure di garanzia ed evitare che venga oscurata la nostra missione. Insomma, un Pierluigi Bersani che dice: il PD è turbato, ora occhi aperti, così titola a pagina 13 in questa lettera pubblicata dal Corriere della Sera. Certo, c'è da dire che se si leggono i giornali le accuse sembrano sempre più circostanziate. Per esempio Paolo Colonnello, che si occupa di giudiziari a Milano, soldi anche ai DS nazionali, così si legge a pagina 15 della Stampa, cercavano delle false fatture, hanno trovato la lista della spesa, decine di finanziamenti, alcuni leciti, altri no, finiti negli anni passati anche a dirigenti nazionali dei DS. Tra questi almeno 100 milioni di lire nel 2000 con versamenti in contanti a uomini di botteghe oscure, sempre su richiesta di Penati. Questa è la novità dell'inchiesta sulle presunte tangenti finite all'ex presidente della provincia ed ex sindaco di Sesto San Giovanni, nonché ex consigliere politico del leader PD Bersani. Insomma, questa è la novità. Il manifesto titola «La Stalingrado» di Filippo Penati. Sapete che Sesto San Giovanni, per la verità, si è molto modificata, ma è conosciuta come la ex Stalingrado d'Italia per via delle sue industrie, città operaia. C'è poi tutta la discussione sulla cosiddetta diversità, superiorità morale, presunta superiorità morale, quella che Bersani dice: noi non rivendichiamo alcun tipo di diversità genetica, ma di diversità semmai politica da parte della sinistra. Chiamparino interviene in un'intervista su Repubblica, l'ex sindaco di Torino: diamo presto segnali forti, faccio un ragionamento che prescinde dalla posizione di Penati, dice Chiamparino intervistato da Goffredo De Marchis. Anzi, per come lo conosco, penso che Filippo uscirà assolutamente pulito. Ma se chiamiamo questione morale le inchieste che coinvolgono il PDL, dobbiamo usare lo stesso nome per gli indagati del PD. Che da una parte siano 100 e dall'altra 10 non è una sfumatura, ma non assolve i democratici. La diversità con Berlinguer era un dato di appartenenza, oggi deve essere una conquista, e se la reazione del PD nel caso Penati è stata apprezzabile, nella vicenda Tedesco l'immagine del partito non è stata né trasparente né limpida. Apro parentesi, il senatore Tedesco sarà nostro ospite alle 8:20 nell'intervista. E cosa propone Chiamparino? Una vera battaglia anticasta del PD. Per esempio, si proponga l'abolizione dell'autorizzazione a procedere per l'arresto. Aveva senso 100 anni fa, quando l'avvocato socialista che difendeva i braccianti dei latifondisti doveva godere di uno scudo contro i padroni, ma adesso la politica non è funzione sovraordinata, deve stare a livello di altre funzioni. Chissà che ne pensa il senatore tedesco di questa proposta di abolire l'autorizzazione all'arresto. E vabbè, e poi si scatenano ovviamente i giornali orientati, insomma, sul centrodestra, no? Basta leggere il giornale Libero. Ecco il tangentificio rosso, Maurizio Belpietro. Finalmente ho capito in cosa consiste la diversità dei dirigenti del Partito Democratico rispetto ai colleghi del Popolo della Libertà. La differenza non sta nella superiorità morale, come per lungo tempo ci hanno fatto credere. Gli esponenti del PD sono bravi a non farsi beccare. Le tangenti non se le mettono in tasca come rubagalline, ficcandole in una busta di carta o in un pacchetto di sigarette, né se le fanno consegnare sotto forma di Ferrari o orologi di lusso. No! I compagni sono molto più professionali di quelli del PDL e applicano procedure rigorose e codificate. Così come Vittorio Feltri, in prima pagina del giornale, il titolo del giornale è Diversamente ladri, la sinistra dall'epoca di Berlinguer si proclama diversa dagli altri partiti per un motivo semplice e semplicemente falso. Noi, dicevano i comunisti e dicono ora i post, siamo onesti, non rubiamo per arricchirci, non rientra nelle nostre abitudini, abbiamo altri valori e se casomai un compagno ruba è un'eccezione. La corruzione nel nostro ambiente non è sistematica e chi sgarra viene sospeso, allontanato, scomunicato dal gruppo, che in questo modo rimane illibato. Nel centrodestra invece i mariuoli sono una costante, vengono tollerati e protetti, cosicché crescono e sono inestirpabili come la gramigna. Il bello è che a furia di dire simili sciocchezze, loro, i puri, si sono convinti di essere nel giusto, portatori di verità, al punto che in questi giorni all'interno del PD si è aperto un dibattito sul tema «Noi siamo diversi». E beh, insomma, c'è tanto di questa inchiesta, c'è ancora anche di un'altra inchiesta, quella che coinvolge il deputato del PDL Marco Milanese, l'ex consigliere del ministro Tremonti. La svolta, o meglio la svolta, la novità che è proposta oggi dai giornali è questa, che Milanese, l'onorevole Milanese, incontrò il magistrato Capaldo sapendo di essere indagato. E beh, questa è una vicenda che sicuramente sarà importante. Quando partecipò al pranzo col procuratore aggiunto di Roma Capaldo, Marco Milanese sapeva da 2 giorni di essere sotto inchiesta a Napoli. A rivelarlo peraltro è lo stesso parlamentare. E a quel pranzo partecipò lo stesso ministro Tremonti e l'incrocio di date dimostra che Capaldo, titolare delle indagini sui fondi neri presunti di Finmeccanica e sulla cosiddetta P3, aveva già interrogato almeno 2 testimoni d'accusa contro Milanese. Ora Milanese dice ma era un pranzo già fissato in precedenza, se fosse stato lì per lì fissato non ci sarei andato, ma fu organizzato dall'avvocato Fischetti, che mi disse che aveva organizzato tutto perché era opportuno che il ministro Tremonti conoscesse il procuratore Capaldo. Invece Fischetti sostiene che avvenne esattamente il contrario, cioè fu Milanese a sollecitarmi e io proposi questo pranzo a Capaldo. Beh, insomma, c'è molto ancora di cosa, magari per divertirci, perché queste cose vanno prese col sorriso un po' sulle labbra, no? Sennò vi viene poi il fegato grosso, la questione della casta, la questione dei costi della politica. Noi oggi torniamo a parlarne e abbiamo reinvitato, lo avremo alle 8.30, il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, colui che ha detto vedete che se si vuole si può e si taglia. Beh, insomma, se viene il fegato amaro, forse è il fegato grosso a sapere che al Senato un pranzo di lusso costa 10 euro. Ieri sentivo anche i nostri Cruciani e Parenzo, no? La Zanzara a parlare di questo. Il pranzo al ristorante del Senato, 10 euro, il massimo del costo è 3,34 euro per le lamelle di spigola con radicchio e mandorle. 3,34 euro, ragazzi, ma dove si trovano a 3,34? Oppure 2,76 euro, così costa il filetto con salsa al limone al Senato, 2,76 euro. Al Senato un pranzo di lusso, 10 euro, via, 10 euro e siete serviti e riveriti. Allora, se diamo uno sguardo al panorama internazionale, dobbiamo prendere in mano solo le 24 ore e capire che cosa sta succedendo, soprattutto negli Stati Uniti. Abbiamo sentito anche nel giornale radio, sapete che questa scadenza del 2 agosto è una scadenza importante, perché o si trova un accordo tra repubblicani e democratici sul debito americano, oppure la situazione è grama. Muro contro muro sul debito americano. Marco Valsania sul Sole a pagina 2 racconta i due piani, uno democratico e l'altro repubblicano, in corsa per una sola scadenza. I negoziati sono quelli per evitare il default sul debito il 2 agosto, avviare la riduzione del deficit. Negoziati rimasti orfani di un compromesso, nonostante si siano moltiplicate le preoccupazioni. Sono due i piani. Harry Reid, leader democratico al Senato, ha discusso col presidente Obama l'innalzamento del tetto dell'indebitamento di 2.400 miliardi, affiancato da 2.700 miliardi in tagli di spesa in 10 anni, senza riduzioni dell'assistenza sanitaria e delle pensioni, senza nuove tasse, ma con 1.000 miliardi in risparmi della guerra in Afghanistan. I repubblicani hanno denunciato le cifre come del tutto illusorie. Lo speaker della Camera, John Boehner, ha proposto di alzare invece subito di soli 1.000 miliardi il tetto del debito in cambio di 1.200 miliardi in tagli di spesa. Insomma, la situazione è di compromesso che non si trova. La situazione politica anche di stallo, perché come detto ieri i repubblicani hanno la maggioranza alla Camera e quindi sono decisivi. O si trova un accordo o altrimenti il default è dietro l'angolo. Mentre che sia il fallimento dietro l'angolo, cioè per tutti, non è questione di se, ma è questione di quando, è la situazione della Grecia. Moody's vede il default greco, così titola pagina 3 Il Sole con Vittorio Darold, che racconta di come Moody's ha tagliato ieri di 3 livelli il rating sul debito a lungo termine della Grecia. Ormai questo vuol dire che la probabilità del default greco del debito del governo greco è pari al 100%. Cioè è assolutamente dato per scontato. Una volta che lo scambio in perdita sarà stato completato, l'agenzia riesaminerà il rating della Grecia per garantire che rifletta il rischio connesso col nuovo profilo di credito del paese, compresi potenziali ulteriori ristrutturazioni del debito, ha precisato una nota di Moody's. Insomma, si vedrà se c'è il salvataggio. Il Corriere della Sera giustamente comincia a porsi anche una domanda: c'è il rischio di uno shock globale? Così si chiede Massimo Gaggi a pagina 6, cioè se il debito pubblico americano non si troverà un accordo sul debito pubblico e si arriverà al default, c'è questo rischio? È la domanda che certo ci si deve cominciare a porre con una certa insistenza. Mentre il Sole 24 Ore oggi nella manovra, nello speciale Mercati e Risparmio, si concentra su il classico bene rifugio, l'oro. L'oro è uno di quei beni a cui si fa riferimento in queste situazioni. Fabrizio Galimberti risponde proprio a questa domanda oggi in una pagina, pagina 7. Puntare tutto sull'oro, che è un gran classico in queste situazioni, per dare uno scacco alla crisi, è la soluzione giusta? Sempre in panorama internazionale, è ancora molto molto forte l'emozione, il dolore in Norvegia per la strage compiuta da Breivik. Anders Behring Breivik, che ieri, entrando nell'aula 828 per la prima udienza di incriminazione, pensate, lo ribadisco, rischia 21 anni di carcere, 3 mesi per ogni vittima che ha fatto. Questo è il massimo della pena in Norvegia, 21 anni di carcere. Ieri, presentandosi, ha detto le frasi più importanti: non ero solo, c'erano altre 2 cellule con me, una strage che era necessaria per salvare la Norvegia e l'Europa occidentale dal marxismo culturale. Volevo mandare un segnale forte. Il suo vero obiettivo era soprattutto l'ex premier Gro Harlem Brundtland, che era sull'isola della strage. Poi ha detto anche questo killer: il governo ha permesso la massiccia importazione di islamici che stanno colonizzando la Norvegia. E poi c'è quell'inquietante sorriso che tutti forse avete visto, il sorriso entrando in aula, strappato dai fotografi al di là del finestrino nella macchina dove lo stavano portando, il sorriso del mostro. Oggi vi invito alla lettura di questo commento di Francesco Merlo su Repubblica. concede al fotografo il suo sorriso giocondo, un sorriso insinuante, ammiccante, compiaciuto, ed è la prova che non bisogna credere alle facce, che i mostri non sono mostruosi, che Lombroso aveva torto, che la fisionomica non è una scienza. Visto così, dal finestrino dell'auto che lo porta in tribunale, Breivik è l'uomo più contento del mondo, soddisfatto di sé. Non ha nulla di torvo, di arrabbiato, non ha la tenebrosità del diavolo, né quegli occhi di ghiaccio che molti gli hanno attribuito senza neppure guardarlo in faccia. È felice di star lì, di essere diventato famoso, pensa di aver agito bene, di meritarsi finalmente gli occhi del mondo. Ed è moderno Breivik, perché è l'apoteosi di Andy Warhol, del favoloso criminale che si è scolpito nel marmo il suo quarto d'ora di popolarità, ha trasformato i suoi 15 minuti in un'eternità. Certo, sono infinite le vie della follia, scrive Merlo, ma la strada che ha scelto Breivik è quella della giocondità, della semplicità. I suoi libri cult, per esempio, Kafka e Orwell e Machiavelli, ovviamente la Bibbia, sono anche i nostri. E noi che li abbiamo letti sappiamo bene che li possono leggere anche i cretini, che sono pensieri che in mano ai cretini possono degenerare. Il killer disegnato da Tarantino citava il profeta Ezechiele, quello di John Lennon aveva in tasca il giovane Holden. In mano a un cretino anche la perfezione diventa storta, anche il sublime diventa fango. In mano a un cretino Leopardi non è più un poeta, ma un gobbo rancoroso. Davvero il sorriso del giocondo dopo lo spaventoso eccidio è il sorriso di un cretino. E forse è così che bisogna leggere quella sua faccia candida. Forse è così che dobbiamo decrittare la sua orribile storia col codice della cretinocrazia. Ecco cosa ci dice il suo sorriso. Ecco cos'è il mostro. Uno spaventoso, fantasmagorico, tragico, colossale cretino. Questo è il sorriso del mostro di Francesco Merlo su Repubblica. E poi che dire in segnalazione, giusto per concludere, vabbè, trovate ancora molto della situazione treni, caos treni, ma insomma vi invito poi ad ascoltare sempre Strade in diretta. Voglio chiudere con Luca Volontè, onorevole dell'UDC, che ha fatto che cosa? È andato a Monza, alla Villa Reale, dove sono stati inaugurati i 4 sedi decentrate dei ministeri. Il Messaggero lo segue a pagina 1 e poi a pagina 6. Ero in Brianza per motivi familiari, sono andato lì, tutto chiuso. Ministeri, sedi fantasma. A Villa Reale, tutto chiuso. Gli uffici inaugurati sabato, nessuno mi ha saputo dire niente, non c'era neanche un custode. Ho scovato un'entrata secondaria, ma nulla, tutto chiuso. Ma questi ministeri alla Villa Reale di Monza, ma cosa sono? Ma chi lo sa, per Luca Volontè è solo un gigantesco bluff in salsa padana.